È un bimbo delizioso sotto tutti gli aspetti, pieno di vita. Abbiamo avuto diversi contatti epistolari. Poi lui ci aveva chiesto se di conoscerci e siamo partiti. Romica ha i genitori? Romica non ha i genitori. Sta in istituto? In una casa famiglia. Qual è il rapporto che si è instaurato anche a seguito dell'incontro con questo bambino fra di voi? Non è il classico stacco dell'assegno e basta che si fa tutte le volte, ma qui si tratta di vedere i risultati della sua crescita, delle sue necessità, dei suoi sogni, di quello che vuole fare da grande, di quello che vorrebbe fare adesso, ma non solo di Romica, perché ripeto, io sono affezionata a tutti i bambini che ci sono in questa casa, né vederli di volta in volta come crescono. Adesso siamo andati ad aprile, torneremo a luglio per il compleanno del bambino. Per me è come avere tanti nipoti. Ho dei nipoti naturali a cui voglio bene e questi sono i nipoti acquisiti a cui voglio altrettanto bene. Sembra di non aver fatto mai niente in tutti questi anni e d'improvviso ci si rende conto di essere al posto giusto, nel momento giusto, allora ci si rende conto di poter fare qualcosa.